La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Sono spiacente di non poter presentare di persona la richiesta di mio padre, ma la mia astronave è stata catturata e il mio tentativo di portarti ad Alderaan è fallito. Governatore Tarkin, dovevo aspettarmi di trovarvi con in mano il guinzaglio di Fener. Ho riconosciuto il vostro fetore quando sono stata portata a bordo. Gentilissima, fino all'ultimo. Non avete idea di come trovi difficile firmare la vostra condanna a morte. Sono sorpresa che abbiate il coraggio di assumervi questa responsabilità. Principessa Leila, prima della vostra esecuzione, vorrei che foste mio ospite ad una cerimonia che renderà operativa questa stazione da battaglia. A Carrie Fisher, scomparsa da poco, amata principessa Leia di Guerre Stellari. E dunque benvenuti a questa nuova puntata della prima volta, ospite Ottavia Piccolo, la cui voce avete appena sentito nel doppiaggio appunto di Leia, una delle tante storie che ha da raccontare la Piccolo, un'artista sempre curiosa e combattiva. Sì, qualche sera fa ho visto un bellissimo documentario su Debbie Reynolds e Carrie Fisher, appunto. Sì. Dove ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Sapevo che Carrie Fisher era una persona notevole, dotata, intelligente, spiritosa, che aveva avuto una vita complicata, e quindi sono stata felicissima di aver visto questa cosa e oltretutto di risentire ogni tanto la mia voce, perché facevano vedere sia dei pezzi in lingua originale sia dei pezzi doppiati di Guerre Stellari. E sono contenta di aver fatto questa cosa, perché è un io non sono una doppiatrice, l'ho fatto qualche volta, quello è stato uno dei casi in cui insomma ho fatto un doppiaggio che poi è diventato famoso. Ogni tanto qualcuno mi chiede: mi dici una battuta della principessa Leila? Ecco, non me la ricordo, posso dire al massimo la forza sia con te. Questo tra l'altro nell'ultimo episodio che ho doppiato, il finale, l'ultima battuta che dice appunto la principessa, che poi in realtà si chiama Leia, non Leila. Sì, è vero. Leila era per noi, perché il primo direttore di doppiaggio, quando abbiamo fatto il film la prima volta, ha deciso che Leia non gli piaceva e ha messo Leila, però tutti la chiamano, in Italia continuano a chiamare Leila, invece è Leia Organa, ecco. Però mi sono, qualcuno mi dice: dimmi qualcosa. La forza sia con te, continuo a dire. La storia di Ottavia Piccolo è molto lineare e si basa su un cardine: la scelta. Scegliere consapevolmente, come vedrete nel corso di questa intervista, risulta la chiave della serenità e del raggiungimento di una grande maturità artistica per un'attrice che ha comunque da subito dimostrato un enorme talento. Quando si parla onestamente, voglio dire, senza dire adesso faccio una cosa impegnata, faccio una cosa politica, questo è, secondo me, è sempre una partenza sbagliata. Sì, perché poi la carichi di retorica, la carichi di... Esatto, ci metti dentro anche quello che non ci dovrebbe essere, e poi è sempre un po' un ricatto per il pubblico, no? Guarda, ti parlo di un argomento rispetto al quale non puoi fare... non puoi dire che non ti piace. Se io parlo della pedofilia, no? Mica possiamo dire che uno non è d'accordo contro la pedofilia, eccetera, eccetera. Però bisogna vedere come lo faccio. L'argomento non è sufficiente. Per chi fa comunicazione e teatro, la forma poi è fondamentale. perché non basta il contenuto passa anche attraverso la forma. Lei prima ha detto: io a un certo punto mi sono anche stufata di stare lì ad aspettare che mi dessero dei ruoli così, però lei ha fatto tanto teatro, diciamo, chiamiamolo classico. Ha certo. Iniziato a 10 anni, ecco, gliel'avranno chiesto in migliaia. Sì, ma non fa niente, me lo richiedo. No, volevo sapere a 10 anni com'è stato, perché lei comunque non ha debuttato all'oratorio. Cioè. No, ho debuttato in un vero teatro, ma dunque è stato assolutamente casuale. La mia mamma mi ha portato a una audizione per uno spettacolo teatrale che si chiamava Anna dei Miracoli, con la regia di Luigi Squarzina, protagonista Anna Proclemer, e tutto questo succedeva nel 1960, ma tutto questo succedeva perché mia madre amava il teatro, ma siccome non era mai stata in un teatro, lo sentiva solo alla radio, allora non avevamo in casa la televisione, per mia madre il teatro era la radio, però siccome sapeva che in realtà si svolgeva in un teatro su un palcoscenico, leggendo questo annuncio ha detto: ma dai, andiamo, che così vediamo come è fatto un teatro. Fantastico. No, fantastica, ma è vero, non è inventata, lo giuro che è vera. E così siamo andati, noi vivevamo a Roma, siamo andati al Teatro Quirino di Roma, un bellissimo teatro, e io sono arrivata e siccome avevo 10 anni, ma ne dimostravo meno, come spero anche adesso. Sì. e quindi sono stata subito, diciamo, opzionata. Hanno detto: questa ragazzina ci sembra giusta. Hanno fatto delle selezioni, sono rimasta per ultima e sono stata scelta. E per me è stato, ma non so neanche dire cosa, un gioco, un bellissimo gioco, serio, che prendevo molto seriamente, come si fa da bambini. Tutti noi giochiamo molto seriamente da bambini, e se decidiamo che siamo la principessa, siamo la principessa, e se decidiamo che siamo un astronauta, siamo un astronauta. E così forse ho fatto io, pensando di essere veramente Helen Keller, e da allora, 1960, novembre 60, Teatro Comunale di Modena, e da allora sto ancora qua. E quindi dopo cosa ha fatto? Cioè, lei è andata avanti con gli studi, però continuava a recitare. Sono andata avanti, sì, praticamente recitando. Gli studi ho fatto molto poco, sono una somarella, perché ho smesso di studiare alla terza media, perché non riuscivo a studiare e lavorare, e siccome una volta non c'era l'obbligo di studiare e di fare gli esami anche lavorando, ho smesso in terza media. Diciamo che mi sono ripresa da sola, continuando a studiare per i fatti miei. E così, con tanto teatro anche, diciamo. Con tanto teatro, questo mi ha aiutato a leggere, a guardarmi intorno, a confrontarmi soprattutto con le persone più grandi di me, più colte di me, più che leggevano dei libri, che mi hanno cominciato a consigliare, e io, da brava scolara, ho dato retta. Sono stata, io dico sempre che sono una figlia d'arte adottiva, perché i figli d'arte avevano genitori ovviamente nell'arte, i miei no, però io sono stata adottata molto presto e ho imparato, andando, come si faceva una volta, a bottega, sul palcoscenico, guardando gli altri, rubando, come si deve fare in tutti i lavori, si ruba a quelli più bravi e poi si cerca di mettere in pratica. E ci sono stati dei momenti difficili in cui ha un po' messo in discussione anche le sue scelte? Cioè, si è mai chiesta, forse? No, dal punto di vista di decidere di fare un'altra cosa, no. Diciamo che intorno ai 16-17 anni stavo lavorando, ma avevo tutti amici che facevano l'Accademia d'Arte Drammatica, l'Accademia Silvio D'Amico a Roma, e a quel punto mi sono un po' domandata se non fosse il caso di fermarsi e andare a studiare seriamente come facevano loro. Stavo per farlo e tutti quanti, devo dire tutti i miei giovani amici di allora, che adesso sono diventati, Gabriele Lavia, Paola Gassman, Michele Placido, che ne so, tutti questi, hanno detto: ma te sei matta, ma stai già lavorando, ma cosa vuoi venire a studiare? E studia per conto tuo e impara sul palcoscenico. E quindi, perché mi sentivo un po', avevo dei sensi di inferiorità, loro studiavano, leggevano libri di cui io non conoscevo neanche l'esistenza, e insomma mi sentivo un po' una bestia. Questa è una cosa che succede con grandissimi autodidatta, pittori, scrittori, ma grandissimi nomi come lei, del resto, resta sempre questa che in realtà è quasi un punto di forza, perché poi resta sempre questa curiosità molto giovane, no? Penso di sì, e quello che mi, come dire, che mi salva ancora adesso è proprio la curiosità. Non sono un intellettuale, ma sono una lettrice curiosa, e curiosa per tutto, non solo per la lettura, per il cinema, per il teatro, per l'arte, per quello che mi, insomma, per quello che c'ho intorno. Cerco di non mi annoio mai, ecco, questo è sicuro. Io conosco l'Italia piuttosto bene, sia geograficamente che artisticamente, perché in ogni posto dove vado c'è qualcosa da vedere, c'è niente da fare, abbiamo un paese che è la meraviglia delle meraviglie. Nel posto più sperduto, sopra una montagna, che pensi, ma chi ci sarà qui? Ma chi ci, intanto pensi, ma chi ci viene a teatro? E invece poi la gente ci viene, e poi c'è qualcosa da vedere: una chiesa, una pieve, un castello, una collina, un profilo di montagne, c'è sempre qualcosa da vedere. Questa dunque Ottavia Piccolo, una grande artista, un percorso di vita forte, determinato dalla ricerca del sapere, che parte proprio da una mancanza e che, come spesso accade, diventa risorsa. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco, sempre con Ottavia Piccolo. Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Dal 12 giugno il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Vi ricordate di Beslan? Era all'inizio di settembre 2004. Nella scuola della cittadina dell'Ossetia del Nord, una repubblica autonoma della regione del Caucaso, nella Federazione Russa, un gruppo composto da 32 ribelli fondamentalisti islamici e separatisti ceceni occupò la scuola, sequestrando circa 1200 persone fra adulti e bambini. 3 giorni dopo, quando le forze speciali russe fecero irruzione, fu l'inizio di un massacro che uccise più di 300 persone, fra le quali 186 bambini, 700 i feriti. 3 giornalisti che cercarono di fare luce sulla strage nella scuola di Beslan, c'era anche Anna Politkovskaya. Qui un suo articolo, interpretato da Ottavia Piccolo. Sì, ci sono stata a Beslan, qualche tempo dopo, e ho toccato con mano. Ho visto una scuola che è solo vetri, le matite a terra appena temperate, i disegni con scritto primo giorno di scuola, i festoni strappati, quaderni a righe, quaderni a quadretti. Ho visto la palestra fatta saltare a colpi di mortaio con gli ostaggi dentro. Ho visto i bagni dove gli schizzi di sangue stanno ancora dappertutto. Ho visto i muri tirati giù a colpi di mortaio e l'impronta dei cadaveri ammassati alle pareti. Lei c'è stata laggiù a Beslan, signora Politkovskaya? Da che parte sta lei, signora Politkovskaya? I russi o i ceceni? L'esercito o i terroristi? Cioè, dovrei prendere una posizione? Perché prendere una posizione è intelligente. Allora vediamo. Ecco, sosterrò i terroristi? Che imbottiti di eroina e marijuana si sono presi 1127 ostaggi in una palestra il primo giorno di scuola? O sosterrò invece l'esercito, che ha usato il lanciafiamme contro i bambini di 10 anni. No, no, no, forse è meglio se sostengo i terroristi ceceni che facevano bere urina agli ostaggi. No, è meglio se sostengo l'esercito russo che per Beslan ha usato persino armi proibite. Potrei sostenere i ceceni che tuttora celebrano il loro capo, il capo di Beslan, come un eroe. O potrei sostenere i russi, il loro presidente, che sulle vittime, 400, non dice una parola. Certo, prendere una posizione è intelligente. Io so che ci ho camminato a Beslan, in mezzo alle fosse. Ce ne sono singole, doppie, triple, quadruple, quintuple, sestuple. I nomi stanno scolpiti sul legno con la punta di un cacciavite o su un cartone con il pennarello. Tu ci cammini in mezzo e leggi, da una parte e dall'altra, a destra e a sinistra. Cammini e leggi. Aleksandr Balandina, 9 anni. Marina Totrova, 11 anni. Hassan Rubayev, 14 anni. Alina Tetova, 11 anni. Ira Tetova, 12 anni. Zera Tetova, 10 anni. Lei c'è stata laggiù a Beslan, signora Politkovskaya? Da che parte sta lei, signora Politkovskaya? I russi o i ceceni? Donna non rieducabile è un testo di Stefano Massini che racconta con 19 istantanee la vita, ma soprattutto la professione e la morte di Anna Politkovskaya, la giornalista russa uccisa nel 2006 a Mosca. Sì. Niente, è un memorandum teatrale, non è uno spettacolo nel senso classico della parola. Io in scena racconto appunto Anna Politkovskaya, Stefano Massini ha messo in ha teatralizzato dei pezzi che la Politkovskaya ha scritto, quindi non è che noi leggiamo semplicemente le cose o diciamo le cose che ha scritto lei, ma Stefano Massini le ha elaborate teatralmente e basta. Insieme a me in scena c'è una straordinaria musicista che ha composto anche le musiche, che si chiama Flora Leda Sacchi, che suona l'arpa ma in modo straordinario e soprattutto inusuale, perché ci sono dei momenti in cui il suono dell'arpa non sembra nemmeno un'arpa ed è diventa un personaggio, una scenografia, un'altra voce insieme a me. Ecco, quello... e sono quasi 10 anni che noi portiamo in giro questo nostro lavoro, perché il nome e ormai il mito, cioè il racconto di Anna Politkovskaya è sempre presente. E ha un pubblico molto giovane anche interessato, perché di fatto si parla di temi come la libertà e certo, il desiderio di combattere. Certo, certo, e soprattutto abbiamo visto che c'è una grande sensibilità rispetto al tema della libertà d'espressione, insomma della libertà di stampa. Lei era una giornalista, tra l'altro una giornalista che avrebbe potuto fare una vita tranquilla e rilassata, ha scelto di raccontare e di dare voce alle persone che non avevano voce, e cioè ai civili ceceni per esempio coinvolti in una guerra che li vede vittime da una parte e dall'altra, insomma alle madri, alla voce, ha dato voce alle madri dei soldati morti in Cecenia che il governo russo faceva praticamente scomparire, e quindi insomma era una donna che non si voltava dall'altra parte quando vedeva soprusi soprattutto su persone inermi. Ed è una storia che insegna che veramente anche la scelta di un singolo può cambiare il mondo, perché di fatto lei era da sola contro un gigante, però ha dato fastidio, certo, al gigante, talmente tanto fastidio da venire ucciso. Che qualcuno ha deciso di fare dei regali, non sappiamo se al governo di Mosca o al governo ceceno, ma comunque sicuramente è diventata un simbolo. Anna Politkovskaya è un simbolo che ci in un certo senso che ci accompagna. Le dicevo, io questo lavoro lo porto in giro da quasi 10 anni. Lei è morta nel 2006, quindi 10 anni e qualche mese fa. Io ho cominciato nel 2007 a fare questo spettacolo, lo chiamo spettacolo per ovvi motivi di semplificazione. La regia è di Silvano Piccardi e appunto sono in scena con Flora Leda Sacchi e continuiamo a farlo dove ce lo chiedono, quando ce lo chiedono. Il pubblico c'è sempre, anche perché purtroppo questi temi sono sempre attuali, noi vorremmo non lo fossero, ma quindi zittire le voci contro è la prima arma per dittature o democrature, come si dice della Russia. E senta, questo vale anche per il teatro, no? Perché anche lei comunque come artista ha sempre fatto delle scelte che la ponessero anche di fronte a testi che avessero un valore, un peso, anche appunto un'importanza per chi riceveva poi questo testo. Cioè, è cresciuta molto lei in questo modello. Io sono molto contenta, è stata una scelta, come dire, non programmata. Sì. Non è che ho detto a un certo punto deciderò di fare le cose diverse, no. Prima di chiudere volevo chiederle se c'è se si guarda indietro un momento, come dire, che lei ha sentito come un momento topico, un momento importante della sua vita in cui le cose potevano andare in una direzione o in un'altra e lei ha scelto, diciamo. Ma sì, forse quando ho deciso, per esempio, negli anni 70, 72, 73, di non fare certe cose televisive, per esempio dovevo fare la, come si chiamava, la perla di Labuan, lì, Sandokan, ecco, dovevo fare Sandokan. Ho deciso, ho detto, ma no, ma che mi frega Sandokan, continuo a fare il mio teatro. E secondo me quello è stato bello, perché poi quel teatro lì era Relire di Shakespeare con la regia di Streller, quindi ci ho visto bene a continuare. È stato un momento importante, una sliding doors importante. Ci salutiamo qui. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 23. Potete riascoltarci in podcast. Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook. Grazie a tutti e buon inizio di settimana. Da Cristina Carpinelli.